Palla Spicchi con Carlo Genta. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Egregio signor presidente, abbiamo un sogno: quello di vedere Kobe Bryant giocare nella nostra squadra, la Virtus Pallacanestro Bologna, città conosciuta in tutto il mondo come Basket City. Condividiamo con lei il desiderio che il lockout NBA finisca presto, ma nel frattempo ci conceda l'opportunità di veder giocare, almeno per una partita, il grande Kobe Bryant con la maglia bianconera, in modo tale da farlo diventare parte della nostra storia. Claudio Sabatini. Io questa non è più nuova, però io vi confesso che da quando ho sentito, letto questa folle raccomandata che ci penso, e oggi avremmo deciso io e Franco Piantanida in redazione di dedicare all'argomento la puntata, non Kobe Bryant, quella è storia vecchia, non interessa ormai più a nessuno, ma Sabatini che tenta di spiegare a Obama, presidente degli Stati Uniti, Basket City. Questo è troppo divertente, è come Peter Pan che racconta dell'isola che non c'è più. Dan Peterson, buon pomeriggio, ciao coach. Ciao Carlo, ciao amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. E un po' è anche colpa tua, perché sei stato tu uno dei primi a far grande la Bologna dei canestri. No, assolutamente no, prima di me c'era Vittorio Tracuzzi, la grande squadra degli anni 40, che hanno vinto 4 scudetti in fila, con dei grandissimi giocatori leggendari lì a Bologna, e poi nel 55-56 due titoli, poi ho avuto io la fortuna nel 76 a vincerlo, però prima di me c'era tanta storia, assolutamente. Sì, ma lì andiamo comunque in anni che non ci ricordiamo. Non conto, io sono molto storico, nostalgico, e queste cose qui e ci credo veramente. Infatti la grande gioia, quando noi, per me personalmente, era nel 76 quando abbiamo vinto. Quasi tutti quelli del 20 anni prima, del 56, sono venuti alla partita e mi hanno detto che erano talmente commossi tutti che sono andati fuori nel corridoio. La partita non era neanche finita, okay? Quello che è chiuso lo scudetto contro Snyder Udine, e piangevano, si abbracciavano, poi l'ho visto dopo. Cioè, è stata una cosa di grande emozione, quindi io sono un grande credente in queste cose. Ah, ma ho fatto la mia parte, diciamo così. È un po' anche colpa tua, come stavo dicendo. Anni 70. Grazie, caro! Anni 70. Tanto comunque la Virtus stava diventando una grande potenza, la tua Virtus stava diventando la grande potenza dell'era recente. La Fortitudo si arrangiava in quegli anni. Anche noi, grazie all'avvocato Porelli, guarda, avevamo un grande rapporto con la Fortitudo, amore fraterno, ma veramente abbiamo prestato dei giocatori, Marco Buonamico, Piero Valenti, altri giocatori, Loris Benelli ha ceduto alla Fortitudo, che hanno fatto veramente la squadra restare proprio in Serie A. Potevamo prendere Carlos Raffaele, Porelli ha detto no, Dan, Fortitudo è stata lì prima, cioè, bisogna non, loro devono essere forti, ovviamente. Io dico no, derby, coach, vogliamo anche vincere il derby, ma la forte, e mi ha sgridato, proprio la forte tutta deve essere forte, quindi avevamo una io ero molto amico di Nikolic, sono andato nel pullman della Fossa di Leone a Genova per lo spareggio del 75, che forse oggi non può succedere, però con grandi gentilezze sono stato accolto, c'era Maurizio Ferro, altri giocatori, Peppino Cellini era con me, quindi c'era un grande feeling, rapporto fra le due società. Il nemico, il cavallo di Troia. Senti, ma i derby, ma Porelli aveva già capito tutto, cosa che tu non avevi capito, e cioè la Virtus ha bisogno di una Fortitudo forte e viceversa, no? Lo sa benissimo anche Sabatini adesso, che insomma, ricordiamo che l'anno scorso si era proposto di salvare la Fortitudo, però i derby sono i derby, e tu, penso, te li ricordi bene, no? Un giorno siete nemici 40 minuti, ok, ma guarda, la perdita del Fortitudo è una perdita tremenda per Bologna, per Basket City. Nessuno parla più di Basket City perché non c'è più il derby e le due squadre forti. A Milano, io ero qui ovviamente allenare nel 80, quando mi hanno detto un giorno a noi in sede, la Pallacanestro Milano, nostro rivale, la Mobil 4, Xerox, la squadra lì, l'altra squadra di Milano, chiude. Eravamo, cioè, è come aver perso il fratello, cioè, sì, proprio sì. Non c'era il derby, non c'era l'interesse, abbiamo perso tantissimo, e certamente maggior ragione a Basket City. Senti, cosa, prima, dopo averti dato la colpa di qualcosa, adesso ti faccio anche arrabbiare, perché io sono convinto, cioè ho questa idea, la Virtus del Rigadoggi, Nobili, eccetera, quella Virtus di Messina che fece 4 finali di Coppa dei Campioni in 5 anni è stata quasi grande, o forse grande quanto la tua Milano. Certo, loro in epoca moderna veramente formidabili, non c'è niente, nessuno può dire niente su come siano oggi, tanto per dire. È chiaro che la mia squadra, l'ultima, la Grand Slam team a Milano, c'è l'87, con 2 giocatori nella Hall of Fame oggi, Meneghin e McAdoo, Mike D'Antoni, Kelly Hendrix. Infatti ogni tanto quando vedo uno di loro dico, vorrei avere tutti come eravamo proprio nell'87 a giocare contro queste squadre. Ovviamente dentro il mio cuore sono convinto che vinceremo, però questo bisogna vedere, okay? Ovviamente ognuno crede nella sua squadra e io sono veramente ci credo, però ovviamente non abbiamo la controprova. Certo, non, questa controprova, i confronti epocali non esistono. No. Come volevo chiederti un'altra cosa, le grandi dinastie, tu sei stato colpevole anche di una grande dinastia, sono comunque un elemento di debolezza per un movimento. Ad esempio, Basket City era secondo me un campanello d'allarme per il basket italiano, la dinastia di Siena è un elemento di debolezza per il basket italiano, come lo era la tua Milano? Well, non esattamente per noi, e forse neanche per la Virtus, Carlo, perché io dico, se uno pensa, l'anno che abbiamo fatto Grand Slam 87, il nostro record nella prima fase regular season era 20-10, terzo posto. Abbiamo perso 10 partite, cioè abbiamo vinto il finale scudetto per 2 punti, la Coppa Italia 2 punti. Avevamo diverse squadre che potevano pensare a vincere lo scudetto. C'era Scavolini Pesaro, c'era la Virtus Bologna di gamba ai tempi, c'era Varese con Joe Isaac, Pesaro, come già detto, c'è Cantù con Marzerati, Riva, Livorno stava crescendo, Roma, cioè avevamo noi tanta concorrenza, per questo dico che avevamo fatto una grande cosa, perché avevamo vinto contro una grandissima concorrenza. Penso che anche la Virtus abbia avuto dei concorrenti della Fortitudo, tanto per dire, sì. già lì. Oggi con Siena è chiaro che il distacco è maggiore, perché certo, quando Siena vince 91-92% delle partite si può dire, però quest'anno forse anche questo sta per cambiare, perché vedo Milano e Cantù con certo, due squadre solide, e poi guarda caso Venezia ne ha promossa, ha fatto Cantù sudare 7 camicie certo, lì alla partita certo, l'altro ieri, e Siena ha perso in casa, c'è tanto per dire, Milano ha perso a Pesaro, quindi forse l'equilibrio sta tornando alla Serie A. Sta cambiando. Cos, io ti saluto, guarda, te lo devo dire perché ti voglio bene, siamo amici, più tardi sentiamo anche Valerio Bianchini. Questo perché? Tra di me e Carlo, non chiamarmi. Ma è andato a spiegare il basket in TV, io devo sentire. Bianchini è un grande, quindi è un grande abbraccio anche lui. Guarda, un giorno te lo riporto qui come abbiamo fatto una volta, te lo prometto, in questi studi. Ciao coach. Ciao Carlo, abbraccio. Ciao. Palla spicchi. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercati. Cosa volete? Basket City che non c'è più. Prima parlavamo di Sabatini con un'altra canzone di Lucio Dalla, come avete sentito. Come Peter Pan che racconta a qualcuno l'isola che non c'è più. È così. Lucio Dalla malato di Virtus, tra l'altro. Poi mi sono sempre chiesto se Virtus una moda, Fortitudo una fede, o viceversa, come sta scritto su tutti i muri di Bologna. Mi domando ancora adesso qual è la fede e qual è la moda. Facciamo così, una delle firme storiche più amate della Bologna dei canestri, Angelo Costa, Resto del Carlino. Ciao Angelo. Ciao, buongiorno. Modo, fede, la Virtus è una moda, la Fortitudo è una fede, o viceversa. Com'è la storia a Bologna? Ma è il dilemma che c'è anche in altri campi, ad esempio, potevi anche chiedermi se è nato prima l'uovo o la gallina. O la gallina, certo. La Virtus però è la storicamente è la squadra della borghesia, la F del popolo, sì, o no? Però tu hai detto che la storia purtroppo si è consegnata al passato, o viceversa anche in questo caso, e quindi diciamo che le cose stanno cambiando. Stanno cambiando anche sotto la spinta di questo piccolo, timido rinascimento che si intravede, con una Virtus che, come sai, è ripartita nel 2003, e la Fortitudo che, almeno sotto le insegne La casa madre è ripartita quest'anno. E perché ho fatto questo giro? Per arrivare alla risposta, cioè una volta poteva anche essere questo il dilemma, una fede e una moda. Adesso invece c'è lo sforzo di costruire anche un pubblico nuovo, lo sta facendo da qualche tempo Sabatini, andando nelle scuole, portando i suoi giocatori nei supermercati per fare reclutamento non solo di talenti ma anche di pubblico, e lo sta facendo anche la nuova Fortitudo, perché fino adesso a Bologna ha giocato poco, però le poche volte che c'è stata è andata oltre i 2000 e sono, tu sai, tifosi che si sono divisi fra passato, tradizione, eccetera, quindi questo si pensa che sia un pubblico nuovo. Ecco, Bologna riparte da qui. Bologna riparte da qui e io riparto facendoti sentire un'altra cosa che non è una canzone invece. Vai al secondo, ce la vediamo. È lunga e può fare un canestro europeo anche. Attenzione. Lui deve andare con Wilkins, lui è veloce. 20 secondi. È un film. Prova Danilovic, da tre punti, segna! Incredibile, c'è anche fallo! Segna da tre punti! Sacca Danilovic, incredibile! Incredibile! Tutto unito, tutti! Hanno giocato a volte rosso dentro. Era il 1998, è un canestro che ha fatto epoca, il famoso canestro da 4 punti di Danilovic con fallo di Dominic Wilkins, che valeva uno scudetto. Tra l'altro in quel 98 la Virtus vinse lo scudetto, ma vinse anche la sua Coppa dei Campioni, la prima delle 4 finali in 5 anni, che prima mi ha fatto dire a Dan Peterson: guarda che quella squadra è stata come la tua Milano. Ebbene, il 25 di novembre 97 Walter Fuochi scriveva su Repubblica: un record tira l'altro nel basket, più incassi di sempre, domenica al derby di Bologna, 414 milioni. E il giorno dopo il felice rimpallo dell'Auditel, che non governa solo le vite di Montesano e della SPAC, ma anche di tutti i muscolari d'Italia. 1.477.000 spettatori in poltrona, quasi 2 milioni aggrappati a quel finale, per vedere come andava a finire la crudele hitchcockiana partita dei tiri liberi, risolta poi dal killer che tutti conoscevano, Sasha Danilovic. Questo era il derby di stagione regolare. Beh, Angelo, Basket City non esiste più, ne rimane la storia che è un po' quella della pallacanestro italiana dell'inizio degli anni 2000. Sì, ma adesso ascoltando tutte le cifre che stavi leggendo mi è venuto in mente un altro discorso. Forse non è solo Basket City che non esiste più, ma è qualcosa di più largo che non esiste più, perché oggi articoli di quel genere, cioè con quei contenuti, li dobbiamo fare a ridurre le cifre, quindi dobbiamo anche accorgerci che forse sì, da un certo punto di vista Basket City come dici non potrebbe anche non esistere più. Io sostengo che magari sta provando a ripartire e ad alzare la testa dopo avere ovviamente toccato il cielo e toccato anche la polvere. L'inferno. Però insomma è tutto un movimento che deve provare a rimettersi in moto, perché quegli incassi, quelle cifre anche di spettatori forse sono lontane, purtroppo sono lontane. Basket City però era anche un po' una distorsione, era una distorsione per la pallacanestro italiana, come in fondo è una distorsione la lunga tirannia di Siena. Quella è, come questa, è una sirena d'allarme ovviamente inascoltata. Ma secondo me distorsione fino a un certo punto, lo poteva essere sui media nazionali, ma a livello locale no, perché qui si parla ancora e si scrive ancora molto di basket, e sto parlando a tutti i livelli, cioè ci sono ancora campionati vivissimi, ci sono ancora attività giovanili florenti, perché la stessa Virtus ha un'attività giovanile molto fiorente. E diciamo che allora si è creato un dualismo cittadino che peraltro non ha fatto male alla pallacanestro, perché ha saputo anche uscire dai confini della città. Ricordo che il derby è un prodotto di grandissimo livello che non è stato vissuto solo a Bologna e non solo in Italia, ma è diventato anche una semifinale di Coppa Europea, quindi voglio dire, c'era questo tipo di situazione che ovviamente fuori magari poteva essere percepita con meno passione, con meno febbre, ma che però ha lasciato un marchio sulla pallacanestro nazionale. Per spiegare ancora oggi cos'è il basket a Bologna, prima fuori onda mi parlavi di un derby vero che si è tenuto qualche giorno fa. Sì, un derby c'è anche questo aspetto, insomma, la pallacanestro sotto tutti i punti di vista e anche la pallacanestro che meritoriamente sta portando avanti un allenatore secondo me importante per la pallacanestro italiana come è stato e com'è Marco Calamai. Marco Calamai allena questa squadra che si chiama Over Limits, cioè questi ragazzi che vanno oltre i propri limiti dovuti a un'abilità diversa rispetto certo. a quello delle persone normali, e qualche giorno fa ha giocato questa partita, una delle tante partite che ha giocato nella sua lunga attività, perché ormai sono oltre 15 anni, e l'ha giocata contro una squadra dove c'era McIntyre, dove c'era Sani Kidd, dove c'era Gigli, dove c'era Koponen, e questa squadra ovviamente è la Virtus, e l'ha fatto curioso, l'hanno giocata in Furla, quindi praticamente la Virtus è andata in casa fortitudo, quindi in attesa che si torni a giocare magari un derby più vero di campionato per la classifica, intanto si vivono anche queste cose. Senti, per chiudere Angelo, dal profondo della tua esperienza, non sto dicendo che sei vecchio, sto dicendo solo che quell'ambiente lo hai vissuto in ogni sfaccettatura, tu dimmi la verità, come immagini il futuro a Bologna? Ma io te l'ho detto all'inizio, lo immagino forse con più ottimismo di quello che possa apparire, perché c'è questo sforzo di ricostruire a tutti i livelli. Stanno cercando con i giovani, con un'attività giovanile che, ripeto, è ancora molto importante, perché la Virtus sta investendo parecchio nel settore giovanile e questa è una delle qualità che spesso non viene ricordata di Sabatini, ma sta investendo anche molto a livello di pubblico, sarà anche vero che molti sono invitati, ma qui in 8.000 ci vanno a vedere la Serie A alla domenica e 8.000 persone non si vedono su tutti i campi, tra questi 8.000 magari qualcuno ne rimarrà, magari per giocare, magari per guardare, e così sta facendo anche la Fortitudo di Romagnoli, ripartendo da lì forse un giorno si tornerà ad avere quel tipo, magari con una pallacanestro anche cambiata, una pallacanestro che dia un po' più spazio anche al prodotto locale, visto che si sta lavorando in questo settore, una pallacanestro che torni a dare un po' più di soddisfazione, anche appunto, magari non più Basket City, ma una città vincente. Ecco. Angelo, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie ad Angelo Costa, dal resto del Carlino. Noi ci fermiamo qui per la borsa e poi torniamo per continuare questi discorsi. Palla spicchi. Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a rimbalzo Fucca e questa l'abbiamo appena vista. Fucca tira la palla a Stavis e adesso la rissa arriva, arriva la rissa con Carlton Myers che si divincola, Savic ancora vicino a Carlton Myers, in campo anche Dominic Wilkins e ancora riprende con Abbio contro Gregor Fucca che cerca di fermare Danilovic che vuole partecipare. Danilovic fermato da Morandotti, ma non è facile, insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto, è proprio quello che non volevamo vedere, succede sul campo. Beh, questo è un racconto storico di molti anni fa, del 98, storica rissa in un derby di Eurolega tra la Virtus e la Fortitudo. Il 98 fu l'anno della Virtus, Scudetto e Coppa dei Campioni. Stiamo parlando di Basket City, della sua storia e del suo futuro, e quindi un po' la rissa, un po' la storia. Allora, un grande personaggio di Bologna, uno dei più amati ancora oggi, perché Bologna la sua storia non la dimentica, John Fultz, o meglio Cocis. Buon pomeriggio. Ciao John. Ciao, buon pomeriggio. Così parliamo di questo libro, di questo Mi chiamavano Cocis. Me lo racconti quando ti chiamavano Cocis? Quando sono venuto a Bologna, avevo quell'aspetto di hippie con i capelli lunghi e mi chiamavano John Matrai e poi qualcuno ha cominciato a chiamarmi Cocis. E contro il barone Schull, tu con la maglia della Virtus, lui con quella della Fortitudo, erano derby veri, non era una Bologna che sognava gli scudetti, ma era una Bologna che viveva intensamente, credo, John, o no? Sì, credo che poi noi in quell'ultimo anno con Peterson avevamo una squadra che poteva anche vincere Scudetto, però siamo venuti insieme un po' tardi, poi siamo riusciti a vincere Coppa Italia, questo ha aperto le porte d'Europa, la Virtus per la prima volta. Comunque secondo me la cosa più significativa è che quando sono arrivato alla Virtus insieme con i miei compagni, con Bertolotti, Serafini, Albonico, un giocatore come Bertolotti e Serafini, che sono stati grandi giocatori nazionali, stavano esplodendo. La squadra era una squadra divertente da vedere e da 2000 tifosi è andato a fare pieno tutte le domeniche. Cosa racconti in questo libro? Che Bologna ricordi in questo libro? Io Bologna da Porelli, dei tempi che fu, perché poi mi piace molto la ricezione che mi ha dato Luca Biagetti quando ha detto che il libro è bello, interessante e pieno di sorprese, delicato e capace di rendere pieno i profumi di un'era. È chiaro che allora erano altri tempi, noi avevamo uno stile di vita un po' particolare perché eravamo in mezzo alla hippie generation. Certo, e come vivevi da hippie americano a Bologna? Credo fosse già una città molto libera, no? Molto aperta a qualunque tipo di idea e anche di contraddizione, o mi sbaglio? Sì, senz'altro, erano bei tempi. Guarda, io parlo spesso con il mio amico Sascha Georgievich, che mi dice: ho giocato a Partizan, Belgrado era casa mia, ho giocato a Milano ed era la squadra grosso modo del mio cuore, la città in cui vivo, nel Barcellona, nel Real Madrid, ma gli anni di Bologna e della Fortitudo sono stati i più belli della mia vita. Credo che anche per te quegli anni siano stati particolari. Sì, perché Bologna è una città che veramente ama il pallacanestro. Penso che questa passione è nata in quell'epoca, prima magari quando giocavano in sala borsa, sì, e facevano sempre pieno lì, poi andando in Piazza Eserita è cresciuto ancora la pallacanestro. Sicuramente. Senti John, per chiudere, cosa fai adesso? Com'è stata la tua vita dopo i canestri? Adesso io ho fatto un attore per tanti anni, ultimamente insegno inglese e sto scrivendo il terzo libro. Penso che questo libro sia un libro storico che dovrebbe essere interessante per tutti a leggere. Addirittura un critico ha detto qua che è un libro che tutti i teenager dovrebbero leggere, perché quello che stai scrivendo ora, ovviamente, tutte le esperienze, anche vicissitudini sbagliate che poi magari facendo queste cose uno impara e vorrebbe fare sì che altri imparano anche loro. Certo. Grazie John, buon lavoro, buona grazie vita. Grazie a te, ciao. Grazie, grazie a John Fulz, detto Cocis. Sascha Georgievich contro Gianluca Basile, vuole comunque lavorare con il cronometro, la formazione di Vinolardo, mancano adesso 11 secondi, è pronto Meccallo alla ricezione, è pronto Blair al pick and roll, ultimi 5 secondi, ancora Georgievich, apertura per Calabria, il tiro da 3 di Calabria, non va, il rimbalzo per Basile, ultimi 3 secondi, Basile deve prendere il tiro, ci prova Douglas allo scadere ed è una tripla, ed è una tripla, segnala Luigi La Monica che il tiro non vale, io presumo che possa esserci l'intervento dell'instant replay e così è, si va a vedere se la tripla di Ruben Douglas è stata scoccata ancora entro i 24 secondi o meno, veramente un finale pazzesco, guardate i giocatori, guardate i volti dei giocatori, è impressionante vedere, c'è chi prega, c'è chi ha le mani in faccia e arriva la conferma, il tiro è buono, il tiro è buono e Bologna è campione d'Italia. Signori, questo fu il canto del cigno, ultimo trionfo di Bologna, canto del cigno bolognese, tutto quanto, non solo della Fortitudo, quel canestro di Ruben Douglas, l'instant replay, dall'altra parte l'ultima partita di un giocatore, come ho detto prima, a Bologna aveva voluto un gran bene come Sascha Georgievich, che ovviamente quel giorno aveva la maglia dell'altra parte. Stefano Valenti da Superbasket, ciao Stefano! Ciao Carlo, era anche l'ultima partita di Gianluca Basile con la Fortitudo. Bravissimo, l'ultima partita di Gianluca Basile con la Fortitudo, io lo ricordo quel giorno trasfigurato, aveva una faccia che sinceramente mi ha fatto un po' paura, Baso, quel giorno, vedendo da vicino era... Ma quegli anni corrodevano. Quegli anni corrodevano, tu te li ricordi bene, quegli anni. Oggi, insomma, abbiamo fatto un tuffo, partendo dalla lettera di Sabatini, non mi interessa più Kobe Bryant, quelle cose sono già passate, mi interessava quella parte in cui cercava di spiegare Basket City, che non esiste più, al presidente Obama. Il problema è, Basket City esisterà ancora? A questo io non trovo una risposta. Non lo so, è difficile, siamo in un periodo di grandi cambiamenti, cambiano anche i valori nello sport, anche in altre discipline, quindi vivendo a Bologna Basket City c'è, perché c'è la Virtus che fa la Serie A, c'è una Fortitudo che fa la Lega 2, c'è un'altra Fortitudo che fa la Serie B, c'è un'altra Fortitudo che è appena stata iscritta alla prima divisione, che forse è l'unica veramente originale. Bologna si gioca, Bologna si va a vedere la pallacanestro, quindi forse la differenza è che prima Basket City era un fenomeno nazionale, adesso è un po' rientrato in ambito locale, che ci sia grande passione a Bologna è fuori discussione e che questa sia rimasta integra ugualmente. È chiaro che da una parte la Virtus ha ridimensionato i propri obiettivi rispetto a quelli dei tempi di Basket City, pur raggiungendo finali di Coppa Italia, una finale Scudetto nel 2007, e dall'altra parte, mettendo al paradosso in un derby immaginario la F e gli Eagles, si avrebbero i 4.000 passa tifosi della vecchia Fortitudo. Sì, questo non c'è dubbio. Il problema vero e che fa male è questa anima disgregata della Fortitudo, perché non si capisce bene appunto quale sia la Fortitudo, ma in fondo non si capisce nemmeno bene quale sarà il destino dell'Aquila. Sì, è vero, non dovrei dirlo, ma ho quasi rinunciato anch'io a star dietro alle vicende, soprattutto per la tristezza di dover seguire più vicende burocratiche, partite giocate più dagli avvocati che dal campo, e credo che dicendo questo interpreto anche un po' il sentimento dei tanti tifosi che non hanno neanche preso posizione proprio per la delusione, perché poi devono leggere sui media, sui giornali, ovunque di chi detiene il diritto a utilizzare il logo, chi detiene il diritto a utilizzare l'Aquila, chi può farlo, chi non può farlo, date di scadenza, ingiunzioni, insomma è una cosa che purtroppo fa parte del nuovo mondo dello sport. Permettetemi di dire che non mi piace per nulla, perché poi la cosa bella è andare in campo e giocare, e qui si è un po' perso questo gusto, inseguendo anche un po' quello che è successo e succede nel calcio per certi versi. Sì, si tratta di capire quale può essere a prescindere dall'Aquila e dallo stemma con la F, si tratta di capire se ci può essere un secondo polo del basket bolognese, cosa che si augura più di tutti Sabatini, perché se ne abbiamo parlato prima anche con Coach Peterson, quello più interessato alla vicenda non può che essere il proprietario della parte opposta. Si tratta di capire se questo secondo polo può esistere e che cosa può coagulare intorno a sé, Stefano. Questo è fuori di discussione, è chiaro che bisogna attendere gli eventi, è come se ci fosse stata una grande rivoluzione storica, è come se fosse caduta una dittatura, sempre per usare dei paragoni in termini recenti, e c'è da ricostruire un governo, c'è da mettere giù una democrazia, c'è da andare alle elezioni. Le elezioni per certi versi ci sono state nel momento in cui è andata in campo la F e si è portata dietro 2.000 passa tifosi, e poi sono andati in campo gli Eagles e ne hanno presi un migliaio abbondante, compresa la storica Fossa dei Leoni, la tifoseria organizzata della Fortitudo. Quindi per certi versi uno schieramento c'è. È difficile, veramente difficile dire quale sarà la Fortitudo. C'è, tra virgolette, e non volendo, come dire, cadere nella nostalgia, il timore che poi alla fine la Fortitudo sia quella che per prima tornerà a vincere. Palla spicchi. Allora, Stefano Valenti, come sta andando la stagione del basket televisivo? Fin qui, primissimo intertempo. Serve ancora un po' di tempo, siamo veramente all'intertempo perché bisogna assestarsi noi e anche gli appassionati, perché la televisione è legata a fattori come la fidelizzazione, e ci rendiamo conto noi per primi che c'è ancora un po' di confusione su chi mostra il basket in televisione, su quale rete e a che ora. Ovviamente la frammentazione dei canali, della televisione satellitare, l'avvento del digitale terrestre che non copre ancora tutta l'Italia ha creato, come dire, un po' di disorientamento. È difficile analizzarla ancora, anche perché secondo me c'è un confronto errato alla base. Non ci può essere questo confronto sul piano della qualità a tutti i livelli, a 360 gradi, tra il prodotto di Sky e quello che viene proposto oggi. Così come non ci può essere confronto sul piano numerico degli ascolti, perché cifra alla mano una partita della 7 vale più o meno 7 partite trasmesse da Sky. Sì. Quindi io mi piacerebbe che si togliesse cogliesse il numero, pure se il mondo è retto dai numeri, come confronto e si cominciasse a guardare quello che realmente il nuovo contratto televisivo sta portando. Quindi i grandi appassionati di Sky ovviamente sono delusi dal passo indietro, ma ci sono tanti che per 7 anni non hanno visto la pallacanestro. Adesso cominciano a rivederla e allora, ripeto, serve un po' di pazienza. Non possiamo essere tutti tagliatori di teste, perché comunque dobbiamo analizzare il prodotto così come è stato analizzato, sì, e sì, non dal primo giorno quello di Sky. Sicuro. Stefano, invece, per il futuro del basket italiano, quale può essere l'importanza di queste gare trasmesse da emittenti locali, la partita in trasferta, te la faccio vedere in diretta, eccetera? Perché io credo che alla fine questo sia un altro grande elemento di novità, un po' sottovalutato, ma anche perché non, io sinceramente non, magari tu riesci meglio, anzi certamente riesci meglio, ma io non riesco a capire quale può essere per il futuro l'importanza di questo discorso. È un altro discorso che ha bisogno di tempo, anche se fondamentalmente si ricalca il modello spagnolo. In Spagna c'era un grande contratto televisivo sulla pay TV e poi si è tornato su TVE, e oggi TVE, il canale di Stato, trasmette sul digitale terrestre. E in più ci sono le autonomicas, le emittenti locali. Stessa cosa da noi ormai, perché abbiamo la televisione in chiaro, abbiamo il basket sul digitale terrestre e abbiamo le nostre autonomicas, cioè le emittenti locali. Ogni squadra ha raggiunto un contratto con una televisione locale e io credo che prima di quest'anno, a parte i tifosi, le tifoserie viaggianti, probabilmente nessun tifoso di una squadra ha avuto potenzialmente la possibilità di vedere la propria squadra giocare tutte le partite. Se c'è un tifoso che va al Palasport e ha l'abbonamento, da casa può vedere la sua squadra in tutte le partite del campionato. Questo è un motivo di novità. Non va dimenticato che questo progetto è partito in tempi strettissimi e la televisione non si inventa, né sul piano tecnico né sul piano organizzativo. Ci sono dei problemi, la qualità non è elevatissima, in alcuni casi non è buona, però ripeto, se ne è parlato a giugno, a settembre ci si è ritrovati, si è fatti una riunione e poi si è partiti, veramente senza rete. Quindi sul piano dell'esposizione nessun dubbio, ce n'è come mai è stata in passato. Su quello dei risultati aspettiamo ancora, cerchiamo di avere un campione completo, cerchiamo di vedere tutte le squadre trasmesse, tutte le squadre anche in trasferta, perché i bacini utenza sono importanti, e poi vediamo quel che viene fuori. Senti Stefano Valenti, per ultimo, come ultima cosa ti faccio fare invece il critico televisivo, perché voglio una tua opinione sulla scuola di basket del Vate Valerio Bianchini su La 7, perché anche questa mi sembra un'altra grande novità stagionale, ma dimmi la verità, ti piace? Guarda, ne abbiamo parlato proprio questa settimana su Superbasket, anche perché il dato di ascolto della prima puntata dei 530.000 spettatori medi è stato ovviamente eclatante, sì. E di solito succede il contrario, non è un magazine che ha più spettatori di una partita, c'è un bel traino di Crozza e questo ovviamente aiuta, io l'ho definito lo sponsor del campionato. Valerio è uno che ha una grande passione, un gran desiderio di allargare questo bacino di utenza, la sua forza di comunicazione è stata pari unicamente a quella di Dan Peterson e sono due capaci di parlare a tutti e non solo al pubblico del basket. Nice. Quindi nella logica di La 7, che è quella di una televisione generalista che ha riportato un campionato su una televisione generalista che non ha pari in Europa e l'impresa è molto difficile e molto complessa, mi auguro che Valerio e quel magazine riescano a attrarre un nuovo pubblico al basket. Valerio Bianchini, ti è piaciuto il giudizio di Stefano Valenti? Molto elogiativo e molto mi porta fortuna, speriamo che mi porti fortuna. E certamente è un bel impegno, perché il nostro impegno è quello di spiegare il basket alla casalinga di Voghera, come diceva Arbasino. Sì, sì. E noi ci teniamo tanto a far vedere, a far capire la bellezza del basket proprio al grande pubblico, perché il basket ha tanti segreti tecnici che possono anche essere svelati, possono anche essere raccontati, ma la sua forza è questa straordinaria bellezza plastica del gioco che unisce forza e grazia allo stesso tempo. Sì, e leggevo, come diceva prima Stefano Valenti, leggevo anche un commento di Franco Arturi che diceva proprio questo, la comunicazione è allargare, no, la platea, e mi sembra che sia quello che state tentando di fare voi, no coach? In omaggio a un certo McLuhan che già negli anni 40, parlando di televisione, diceva: la cosa importante non è il messaggio ma è il mezzo è più importante del messaggio, e in questo caso un mezzo che si rivolge a tutti gli italiani che riescono a ricevere La 7, che sono tantissimi, allora vuol dire che quel mezzo lì farà importante anche il nostro messaggio. Stefano, ti piacerebbe vedere qualcos'altro in questo programma? No, io credo che la formula mi sembra azzeccata, una formula vivace, una formula fatta di contenuti analizzati nei tempi giusti della televisione, come la rubrica di Valerio, che poi nei prossimi tempi si arricchirà di altre cose che sono oggetto di discussione, come ad esempio il legame sottile tra un insegnamento tecnico e l'applicazione arbitrale. È cambiato il regolamento e di conseguenza è anche cambiato quello che gli istruttori allenano, possono allenare in palestra, ed è cambiata la fisicità e l'atletismo dei giocatori. Quindi non è male, quello che dice Valerio deve arrivare ovviamente a tutti, perché altrimenti sarebbe un delitto per il basket che torna in chiaro. Cos Valerio Bianchini, a te piacerebbe aggiungere qualcosa di nuovo, di diverso? Io ci sto provando, nel senso che oltre alla tecnica così spezzettata, che deve diventare parte in pane quotidiano, però mi piacerebbe tanto far passare attraverso questo piccolo programma anche qualcuno dei grandi messaggi che sono impliciti nello sport, quelli del coraggio, della lealtà, della fedeltà. E io spero, con piccole annotazioni, di riuscire ad arrivare anche al cuore dei ragazzi, perché anche se si svolge un po' tardi questa trasmissione, ma conto che la vedono anche i giovani, perché poi i veri destinatari di tutto il movimento sportivo sono sempre i giovani. Io ringrazio Stefano Valenti. Stefano, grazie, alla prossima. Tanto noi ci sentiamo a strettissimo giro di posta. E invece rubo ancora una battuta a Valerio Bianchini, che ha promesso di tornare qui a trovarci, così facciamo arrabbiare insieme Dan Peterson. Ecco, se è la prima volta che passi da Milano, io ti aspetto come sempre. Oh, molto volentieri. Poi quando c'è da duellare con Dan... lo sappiamo. Infatti prima gliel'ho detto, guarda che poi interviene Valerio Bianchini. Non mi chiamare più al telefono, mi ha detto. No, piuttosto, volevo una tua battuta. Tu hai saltato quel fosso, non so come lo vuoi chiamare. Abbiamo dedicato questa trasmissione alla Bologna dei canestri, a Basket City, a quello che è stato e che magari non sarà più. Partendo da Sabatini, che ha tentato di spiegare Basket City che non c'è più, ad Obama. Quindi è qualcosa di cui avere nostalgia, o è qualcosa da che può avere un futuro? È irripetibile. Irripetibile, ho avuto una bellissima esperienza con la Fortitudo, una bruttissima esperienza con la Virtus, durata fino a poco, ma io ti dico che vivere il derby la settimana prima è un'esperienza straordinaria, perché pian piano è come se dai sotterranei di Bologna venisse fuori un'energia spaventosa, che è l'energia del derby, e pian piano questo magma si riunisce davanti al campo di Piazza Zarito o di Casalecchio ed esplode lì un'atmosfera incredibile, e vivere sul campo l'esperienza del derby è qualcosa veramente di impagabile, e credo che Basket City e i suoi derby siano stati uno dei grandi motivi del successo del basket italiano fino agli anni 80. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi. Ti guardiamo tutti. Grazie a Valerio Bianchini, con cui chiudiamo questa puntata di Pala Speak. Grazie a Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Beh, con lo sport ci sentiamo domani alle 5.